Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, pronti allora a leggere i giornali, cari ascoltatori, se vi siete aggregati ora, ben arrivati. Avremo ospite, vi ricordo, alle 8:15 la candidata del Movimento 5 Stelle alla Regione Lombardia, Silvana Carcano, per cercare di capire, ma anche cercare di conoscerla un pochettino, visto che è sicuramente un volto nuovo della politica. E poi parleremo di politica, banche, saranno nostri ospiti il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini e Claudio Borghi, che è editorialista del Giornale, alle 8:30 questo. E allora andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. In questo lunedì 28 gennaio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì dedicata alla politica verso le elezioni, è un'analisi di chi si candida in lista, poco spazio al rinnovamento. I ricandidati sono 512 e occupano spesso le posizioni considerate più sicure. Dunque avremo un Parlamento rinnovato forse solo per metà. E poi la vicenda Berlusconi e le dichiarazioni su Mussolini. Berlusconi, polemica sul fascismo, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, Berlusconi, Mussolini fece bene. La Stampa, Berlusconi rivaluta Mussolini, lo sdegno della comunità ebraica. Il Messaggero, Mussolini, bufera su Berlusconi. L'Unità, Berlusconi candida Mussolini. Il Secolo XIX, Berlusconi, il duce ha fatto cose buone. Mentre Il Giornale apre su Montepaschi Siena, bancomat della sinistra, fuori il bottino. Questo è il titolo di prima pagina. Insomma, nel pieno della campagna elettorale, come vedete, la maggior parte delle aperture dedicate all'analisi sul fatto se Mussolini abbia fatto anche delle cose buone oppure no. Già questo c'è per essere un po' sconsolati, ma intanto voglio partire dall'ennesima puntata di quello che sta succedendo in Liguria, dove giorno dopo giorno si scoprono vasi, piccoli vasi, vasetti, visto che compravano anche del vasellame, vasetti di Pandora, per cercare di capire cosa c'è all'interno delle spese che i consiglieri regionali della Liguria, in particolare dell'Italia dei Valori, si sono fatti rimborsare. Oggi il Corriere della Sera, e quindi ovviamente mani ben salde sul volante, oggi più che mai, essendo lunedì, andate al posto di lavoro e siete in macchina, e se siete in macchina ho tazzine ben ferme di caffè, e l'ho già detto a chi mi scrive: sono in treno, che fare? Mentre ti ascolto, mettiti in posizione di atterraggio di emergenza, tieniti le ginocchia e tieni duro. Profumi, lingerie, borsette, ecco la lista delle vanità dell'Italia dei Valori. Questo dalle ricevute dell'inchiesta in Liguria, il Corriere le pubblica tutte a pagina 13. A firma Elsa Muschella, eccoci qua. C'è il parrucchiere, i libri, borse, valigie. Beh, c'è anche un libro straordinario che è stato comprato, della menzogna politica. Ebbene sì, della menzogna politica. 9,50 euro, rimborsati ovviamente da voi. Borse, valigie, parrucchiere, 19 euro per la piega, la lavanderia, pulire cuscine, federe, lenzuola, l'arredamento, un divano per 1076 euro, 5 piante per 1050 euro, poi profumeria, hanno speso anche 22 euro in batuffoli e solvente, 52 euro in un profumo, 67 euro in un altro profumo, 45 euro in un altro profumo, non dico le marche perché sennò viene fuori una pubblicità. Alimentari, 570 euro di pesce, 55 euro di 4 bottiglie Ferrari Brut, 116 euro in spumanti e liquori, poi 6 bottiglie di Neris, 133 euro, vini di Bourgogne per 2.395 euro. Eccole qui le ricevute dell'inchiesta in Liguria. Di Pietro, stizzito, dice: non so nulla. Ha una sola risposta arrabbiata: non ho visto niente, chiedetelo a quelli della Liguria. È così Antonio Di Pietro. Il Secolo XIX, in prima pagina, ovviamente ha dedicato tante, tante prime pagine su questo tema, spiega come incredibilmente, non ci fosse un sistema per controllare, nonostante il governatore Burlando fosse nostro ospite venerdì scorso e ci ha detto che il sistema c'è per controllare. In realtà Giovanni Mari, in prima pagina del Secolo XIX, puntualmente arriva la stretta sulle spese folli. Già adesso, ovviamente, travolta dagli scontrini assurdi scoperti dai magistrati, dalle mutandine ai bottoni, dai soggiorni alle terme fino al vino grandi firme, l'assemblea corre ai ripari, deve correre ai ripari, e lo scatto partecipano tutti. Chi ha subito l'onta della vergogna senza averne colpe, chi doveva controllare non l'ha fatto, chi ha sperperato senza pudore. La legge che da quest'anno istituiva la sorveglianza dei revisori dei conti sarà applicata retroattivamente e da oggi, sottolineate questa parola, da oggi, le spese dei singoli politici dovranno essere rendicontate mensilmente e nominativamente. Pazzesco, fino a oggi non era così. Ogni cosa finiva in un calderone indistinto. E allora vedete, quando, come scrive il Secolo XIX, Consiglio Ligure, gli occhi chiusi sulle spese folli, la verità è questa, ti dicono e dicono tutti, non si poteva controllare più di quanto controllavamo. E adesso però daremo la stretta, adesso faremo, ora basta. Sempre così, sempre quando arriva la procura a controllare. Va bene, oggi il Corriere della Sera mette in prima pagina, ed è l'unico giornale che ha questa notizia, una possibile svolta sul caso dell'aereo crollato in volo da Los Roques a Caracas, in cui era a bordo tra l'altro anche il figlio di Ottavio Missoni. Scrive Alberto Berticelli in prima pagina del Corriere: ecco la prima traccia dell'aereo di Missoni, è stata trovata nell'isola di Curaçao. È una svolta nelle ricerche sulla scomparsa ai Caraibi di Vittorio Missoni, della sua compagna, di due amici, perché circa due settimane fa, la notizia però è emersa oggi, un turista tedesco in vacanza a Curaçao ha trovato su una scogliera un borsone da kitesurf appartenente a un italiano. L'attrezzatura viaggiava sull'aereo che trasportava Missoni. Il proprietario invece era a bordo di un altro aereo, aveva chiesto di imbarcare il suo bagaglio sul volo di Missoni. Questa è una svolta importante che andrebbe a sostenere appunto la tesi che il fatto che l'aereo sia precipitato. Pagina 19 del Corriere della Sera: ritrovata una borsa sulla scogliera è la prima traccia dell'aereo di Missoni. L'isola di Curaçao dista 200 chilometri da Los Roques, a ovest di Los Roques. È una svolta per le indagini a tre settimane dalla scomparsa del velivolo. È stato recuperato appunto questo bagaglio e evidentemente dall'etichetta si è capito che apparteneva a questo italiano e che questo italiano lo aveva messo a bordo dell'aereo su cui c'era Ottavio Missoni. A Curaçao, scrive il Corriere, in queste ore c'è il cognato di Missoni, Claudio Verna, con i funzionari che per conto del governo italiano coprono l'area del Sud America, stanno verificando tutti i dettagli del ritrovamento. Dunque potrebbe essere una svolta che porta alla tesi, insomma la conferma della tesi, che l'aereo sia precipitato. Ci fermiamo qualche minuto e rientriamo con Mussolini. Ha fatto delle cose buone o non ha fatto delle cose buone? Oggi i giornali si interrogano approfonditamente, chiedendo a storici, politici e commentatori questa imprescindibile domanda nel pieno della campagna elettorale. Allora, eccoci qua alle 7:34 minuti. Allora, vi siete posti questa domanda fondamentale in campagna elettorale: se Mussolini abbia fatto delle cose buone oppure no? Perché ieri è divampata la polemica dopo che Silvio Berlusconi, alle commemorazioni per la giornata della memoria, ha detto questa frase: l'Italia non ha le stesse responsabilità della Germania, ci fu da parte nostra una connivenza che all'inizio non fu completamente consapevole, il fatto delle leggi razziali, la peggior colpa di un leader, Mussolini, che per tanti altri versi invece aveva fatto bene. Insomma, tradotta così da tutti i giornali, il fascismo fece cose buone, e così è un coro di critiche, lo sconcerto della comunità ebraica. C'è da dire che in serata Berlusconi ha emesso un comunicato per correggersi, dicendo: le mie analisi storiche sono sempre state fondate sulla condanna delle dittature, rivendico il mio ruolo di amico storico di Israele, unico presidio di libertà e di democrazia nel Medio Oriente. Ma ormai, insomma, il danno era fatto, le agenzie battevano dichiarazioni di chi lo difendeva, di chi sdegnato lo attaccava. E la giornata è andata avanti un po' così ed ecco che sui giornali ritrovate tutta questa polemica. Il Corriere intervista il presidente della comunità ebraica, Walker Alfonso Megnaghi, che dice: era cominciato tutto così bene. Da 7 mesi il presidente della comunità ebraica, intervistato da Andrea Garibaldi, dice: ma ho parlato con Berlusconi, parlava di una tragedia immane, diceva non riesco a capire come sia potuto avvenire, mi ha raccontato le impressioni del suo viaggio ad Auschwitz, di essere stato colpito dalle parole di Elie Wiesel, e poi l'ho accompagnato all'ingresso dove stavano i giornalisti, gli ha riportato le parole della Merkel sulle responsabilità tedesche, gli ha chiesto di Mussolini e lì ha detto quello che non doveva dire, le cose buone di Mussolini. Ma sì, Mussolini, dice Megnaghi, avrà anche costruito strade, ospedali, la stazione centrale, ma non era il caso di dire proprio questo e proprio soprattutto in quel luogo. E poi l'alleanza con Hitler, insomma, come se Mussolini si fosse dovuto alleare con Hitler, dice Megnaghi. Quindi Mussolini avrebbe preferito mandar via migliaia di ebrei piuttosto che scontrarsi con la Germania, un'affermazione gravissima. E poi Mussolini non se la prese solo con gli ebrei, cancellò la libertà, la democrazia, la dittatura è dittatura, la storia non si può cambiare. Ma insomma tutti i giornali vanno a intervistare più o meno un esponente della comunità ebraica e lo trovate sdegnato, anche Riccardo Pacifici viene intervistato dalla comunità ebraica di Roma, presidente intervistato da Giacomo Galeazzi sulla Stampa, non basta dirsi amici di Israele se poi si minimizzano le colpe del duce, non serve giurare sulla propria amicizia verso il popolo ebraico Israele se poi si minimizzano le responsabilità di Mussolini per compiacere le alleanze con frange politicamente eredi del fascismo. Lo considero questo uno scivolone imprudente, queste le parole di Berlusconi secondo il presidente della comunità ebraica di Roma Pacifici, che si dice amareggiato per questa infausta uscita nel giorno della memoria. Questo per la cronaca. In realtà sono interessanti due retroscena. Il primo lo trovate su Repubblica, firma Francesco Bei a pagina 3, ed è retroscena di un Silvio Berlusconi che in realtà avrebbe fatto questa sortita tutta ben calcolata, questo almeno racconta Repubblica. Perché? Beh, già dal titolo si capisce, la maggioranza degli italiani la pensa così. Poi Alfano e Cicchitto impongono la smentita. Sul fascismo, questa è la versione di Berlusconi, dopo che è scoppiata la polemica, ho detto solo quello che pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Nessuno può accusarmi di antisemitismo. In questo paese sono il più grande amico di Israele. Berlusconi, il giorno della scivolata su Mussolini, mastica amaro per l'eco mondiale della notizia. Lo colpiscono come un pugno allo stomaco anche i titoli dei quotidiani israeliani. C'è timore nello staff per un nuovo possibile isolamento internazionale. Questo è l'effetto indesiderato che si profila a metà giornata dopo l'uscita di ieri. C'è da dire tra l'altro che Berlusconi, scrive Francesco Bei, ha fatto tutto da solo, perché ieri, come ricordano vari giornali, non era invitato alla giornata della memoria, ma alle commemorazioni si è presentato sulla Sponte e tornato ad Arcore. Agli amici che lo chiamavano per capire la genesi del cortocircuito, Berlusconi è apparso all'inizio quasi inconsapevole. Non capisco questo scandalo. Cosa ho detto mai? E poi alla gente queste polemiche non interessano, sono ben altre le preoccupazioni in questo momento. Insomma, Berlusconi che pare sorpreso, poi alla fine scrive Repubblica, Cicchitto e Alfano lo convincono a fare quella smentita, quel comunicato. Interessante anche come Andrea Carugati sull'Unità, pagina 4, racconta in una sorta di retroscena di Bersani, che definisce l'uscita di Berlusconi una cosa indecente. Nel giorno della memoria fa una manovra elettorale per richiamare i voti della destra fascistoide e strizza l'occhio a Mussolini. Ecco, questa è la lettura di Bersani, cioè non una lettura errata, una falsa interpretazione della storia, una gaffe, ma una scelta consapevole per strizzare l'occhio al voto fascistoide. Così titola infatti in Unità, Bersani, il cavaliere indecente cerca i voti fascistoidi. Se volete interessante e curiosa anche a retroscena che firma Gianni Santucci sul Corriere della Sera, nel quale si mettono le foto anche di un Berlusconi che a un certo punto si è assopito, lo trovate un po' ovunque, anche io l'ho pubblicata sul profilo Twitter, Alino Milan, la vedete, insomma, Berlusconi che a fianco a Monti, alla moglie di Monti, si appisola durante le commemorazioni. Dietro di lui c'è Maroni, a fianco appunto Monti. E si appisola. E tra l'altro il retroscena di Gianni Santucci che racconta questa giornata sul Corriere della Sera non era invitato, quindi si è presentato e non c'era il posto, quindi a un certo punto Berlusconi cosa ha fatto? Si è messo in prima fila, si è seduto al posto di Mario Monti, al posto del Presidente del Consiglio, che in fretta e furia una hostess della giornata scrive Silvio Berlusconi con il pennarello, appiccicano alla sedia e voilà, hanno trovato anche un posto, come quando si trovava gli imbucati alle feste. E in ogni caso il giornale invece mette la notizia un po' sotto in prima pagina e chiama Roberto Chiarini, docente di storia contemporanea alla Statale di Milano, a firmare un pezzo che viene pubblicato a pagina 8 sul piano delle bonifiche, il primo welfare, ecco tutte le cose buone che fece Mussolini, così lo trovate sul giornale. Ho dedicato davvero troppi minuti a questa vicenda, ma poi mi criticano, dice ma cosa, basta non leggere, ma io leggo i giornali dedicano le aperture a questa cosa qui e quindi è giusto darvi spazio. L'altra notizia che trovate bene ampia sul giornale è sempre quella del Monte Paschi Siena, noi ci concentreremo alle 8:30 sulla questione banche e politica, trovate tanti articoli interessanti da cui potete trarre spunti per questa vicenda, io ve ne segnalo alcuno. Intanto Fiorenza Sarzanini in pagina 3 del Corriere della Sera, il patto con Santander e JP Morgan, adesso spunta una lettera segreta. È interessante questo articolo perché secondo la procura cominciano a profilarsi dei testimoni, delle testimonianze sul fatto che ci fosse un accordo illecito tra acquirente e venditore, cioè tra Santander e Monte Paschi Siena, per truccare i conti e far salire il prezzo di Antonveneta che fu acquistata da MPS per 9,3 miliardi di euro con un'aggiunta di oneri che fecero lievitare il tutto a 10,3 miliardi, una cifra che anche all'epoca apparve un po' spropositata. Ebbene, secondo questa accusa ci fu un accordo tra chi vendette, vale a dire Santander, e chi acquistò Montepaschi per alzare il prezzo della compravendita e dividersi poi una sorta di plusvalenza, tra virgolette, su quell'affare. Gli atti contabili, le comunicazioni interne, le relazioni trasmesse agli organi di vigilanza sequestrati 8 mesi fa per ordine della magistratura di Siena hanno consentito di trovare indizi concreti su questo intreccio illecito. Tra l'altro sono state trovate, secondo Fiorenza Sarzanini, anche dei documenti interessanti nella perquisizione che fu fatta per altre vicende casa dell'allora banchiere Ettore Gotti Tedeschi, che è stato presidente dello IOR, ma da 20 anni anche responsabile di Santander per l'Italia e che più volte ha incontrato l'ex presidente del Monte Paschi Siena Mussari. E lo scorso anno, indagando sui conti dello IOR, dell'Istituto Opere Religiose, le Fiamme Gialle sequestrarono nell'ufficio di Gotti Tedeschi un armadio pieno di documenti sulle operazioni condotte da Santander nel nostro paese. Ecco da lì che è nata questa vicenda. Interessante anche su Repubblica quello che scrivono Carlo Bonini e Paolo Griseri a pagina 9. Quel prestito travestito da capitale, così Montepaschi ingannò Draghi, vale a dire Banca Italia all'epoca. E c'è il carteggio che risale al 2008, quando la Banca Italia, scrive Repubblica, scrisse una lettera al Monte Paschi al termine di un confronto protratto fino al corrente mese di settembre, come affermano nero su bianco i funzionari dell'istituto allora retto da Mario Draghi. Un carteggio che viene pubblicato già nel 2012 dalla Reuters e che, letto col senno di poi, è assai istruttivo. Perché Palazzo Koch, quindi la sede di Banca Italia, segnala in questa lettera che la predetta operazione non risulterebbe computabile nel core capital, cioè il capitale di rischio. Insomma, c'è qualcosa che non va. E scrive Repubblica, Monte Paschi Siena, nel carteggio che è abbastanza dettagliato e anche tecnico, che poi viene pubblicato, potete leggere, dà le spiegazioni e così inganna in qualche modo Banca Italia. Ma insomma, questi titoli tossici e il legame Monte Paschi e comunque banche politica è un legame solido, è un legame per il quale, come dice Bersani, se qualcuno fa adombrare dei sospetti sulle possibili nostre implicazioni, li sbraniamo, come ha detto. Oppure questi legami sono consolidati, ci sono, il giornale oggi in prima pagina titola così: fuori il bottino, Monte Paschi Siena è il bancomat della sinistra. C'è anche una, a pagina 3 viene messa la dichiarazione di Antonio Di Pietro che dice: so per certo che coloro che governavano la banca avevano un obbligo addirittura paragiuridico di finanziare ciascuno pro quota esponenti del Partito Democratico. Questo avrà anche influenza sui sondaggi. Intanto ripartiamo tra poco, dopo le informazioni sul traffico, con la novità, i titoli tossici, i derivati a mia insaputa. Bisognerà aggiungere questo nella lista. Allora, l'ex direttore generale Vigni viene, non fa dichiarazioni ufficiali, ma sia La Stampa e sia il Corriere della Sera raccontano un po' la giornata, le giornate difficili dell'ex direttore generale Antonio Vigni del Monte Paschi Siena. È il direttore generale che realizzò col presidente Mussari l'acquisizione di Antonveneta dal Santander per oltre 9 miliardi ed è durante quella gestione che si parla appunto dei derivati, ora sotto attenzione. I derivati, perché io ho detto a mia insaputa, erano già lì, eccolo lì. Il direttore, l'ex direttore generale Vigni, che scrive sia La Stampa che Il Corriere, non vuole passare per capro espiatorio, non parla per rispetto della magistratura, ma insomma c'è questo retroscena in cui si raccolgono un po' gli umori o le sue frasi attraverso le persone che in questo momento gli sono vicine. Tutte le operazioni di cui si parla ora erano già tutte lì dalla gestione precedente. Noi le abbiamo gestite, le abbiamo ristrutturate, anche le altre banche hanno cose simili. E beh, questa è una cosa che tra l'altro non è che ci rincuora moltissimo, il fatto che dica che anche altre banche hanno cose simili. I titoli tossici li ho ereditati dalla vecchia gestione. Ecco, da qui si può fare la battuta: titoli tossici o derivati a mia insaputa. C'è, secondo Il Messaggero e Il Giornale, tra l'altro, una talpa di questa vicenda, uno che con 8 pagine di memoriale sui ruoli della fondazione starebbe collaborando molto con la procura. Si tratta di Nicola Scocca, che ha scritto 8 pagine ed è il manager che per primo aveva intuito tutto. E sia Il Messaggero racconta in procura la talpa dei PM, così drogarono l'operazione. In 8 pagine Nicola Scocca, che è il direttore finanziario della fondazione Monte Paschi, fatto fuori, scrive Il Giornale, all'indomani di una memoria di 8 pagine dove di fatto evidenziava un sistema anomalo quanto a erogazioni esagerate saccheggiando il patrimonio. E questo documento, scrive anche Gianmarco Chioccio e Paolo Bracalini sul giornale a pagina 3, è agli atti della procura. Insomma, si sta molto indagando anche sul ruolo banche politica. A proposito di politica, andiamo sul Sole 24 Ore, la prima pagina, perché si racconta di che cosa? Di questa campagna elettorale. Il titolo di prima pagina che troverete è questo: in lista poco spazio al rinnovamento. È un'analisi che il Sole 24 Ore fa delle liste e quindi dei candidati. Notizia: un parlamentare su 2 non sa resistere al richiamo della politica. Per questo è di nuovo in corsa per uno scranno a Montecitorio, a Palazzo Madama. I candidati infatti sono 512 a fronte dei 945 posti disponibili e dunque c'è un vento di rinnovamento che è un flebile soffio, si può dire, no? Perché in pratica i candidati sono sempre gli stessi. Qui la tosse incombe sempre più e quindi vado a bere in diretta, l'ho fatto già anche in passato, Tanto Bordin su Radio Radicale lo fa sempre, no? C'è anche Fuma, quindi posso fare anche questo. E allora la lista dei candidati, 512 occupano le posizioni tra l'altro considerate più sicure. Metà sono le persone che ritroveremo in Parlamento, cari ascoltatori, li ritroveremo tutti, alla faccia ovviamente del cambiamento. Vuole andare ora sul Fatto Quotidiano, prima pagina, o meglio prima pagina, il numero del Fatto Quotidiano del lunedì è un numero dedicato in genere abbastanza monografico, dedicato a un tema. Nello specifico questo tema di oggi è il fumo. Il titolo di prima pagina è Fumo, la rivolta degli schiavi. Ecco i dossier riservati degli analisti finanziari su che cosa? È tutto uno studio, un numero monografico sulla sigaretta, sul tabagismo, sul fumo. Ci si concentra anche su che cosa? Sulla sigaretta elettronica. Per la verità il titolo viene definito a pagina 2 così: veleno elettronico. L'articolo è di Thomas McKinson ed è tutto un concentrato di notizie sulla sigaretta elettronica, che è una moda che sta davvero contagiando molti italiani. Scrive McKinson: uno non sa esattamente cosa vende, l'altro non sa ancora cosa compra, ma fa incetta di flaconcini per la ricarica che infila in tasca come fossero caramelle. Nessuno gli ha spiegato che contengono una concentrazione di nicotina liquida capace di uccidere un bambino in pochi minuti. Questo è in sintesi la sigaretta elettronica, questo almeno sul Fatto Quotidiano. Ci sono vari articoli dedicati a questo, sulla salute, su questa nuova moda che, ripeto, sta contagiando centinaia di migliaia di italiani. E sul Fatto Quotidiano trovate un numero praticamente monografico su questo. Chiudo con la cronaca. Vabbè, troverete anche molto sulla discoteca in Brasile che si è praticamente incendiata completamente, con una strage di 233 giovani che sono morti soffocati per il fuoco, questo in Brasile, a San Paolo. Davvero una vicenda incredibile, una tragedia incredibile. Vi segnalo soprattutto due pagine sulla Stampa, questa firma Paolo Manzo, che è il corrispondente da San Paolo, e anche un intervento invece sul Corriere della Sera di uno scrittore, Paolo Giordano, molto famoso, sul ruolo delle discoteche, lo stordimento e l'innocenza. Trovate l'intervento di Paolo Giordano a pagina 15 del Corriere della Sera. Chiudo allora con la Gazzetta dello Sport, perché il titolo è sempre bello: Milan, applausi, fischi all'Inter. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, ce l'ho fatta, adesso vado a bere ancora un po', Grazie a tutti per il sostegno, Giornale Radio.